Rassegna Stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, buon sabato, bentornati alla Rassegna Stampa Europa, dove ci occupiamo di giornali europei che parlano di Europa. E cominciamo dalla Süddeutsche Zeitung, che è un quotidiano tedesco di Monaco di Baviera, è uno dei più importanti quotidiani tedeschi, è sicuramente il più importante del sud della Germania, e questo quotidiano si occupa delle elezioni, non di quelle tedesche, che come sappiamo ci sono già state, ma di quelle austriache, quindi vicini dei tedeschi. Queste elezioni saranno domani, domenica 29 settembre, e secondo Thomas Glavinic della Süddeutsche Zeitung, con ogni probabilità il risultato sarà lo stesso degli ultimi 70 anni, una grande coalizione, quella che i tedeschi e quindi anche gli austriaci chiamano una grosse coalizione. Le sorprese potrebbero arrivare soltanto dagli outsider. Leggiamo la prima parte di questo articolo. Il 29 settembre l'Austria rinnoverà il suo Parlamento. Chi vuole capire la politica austriaca dovrebbe sapere almeno due cose fondamentali. La prima è che un quarto degli austriaci ci vive a Vienna. Vienna domina dunque il resto del paese come nessun'altra città in Europa, a esclusione di Londra. In Germania i berlinesi possono rivolgersi a Amburgo, Monaco, due città interessanti, mentre i capoluoghi regionali come Graz, Linz, Salisburgo contano tra i 100 e i 250.000 abitanti, alcune meno. A confronto Vienna ha 23 arrondissement, quartieri, uno dei quali si chiama Favoriten e da solo ha oltre 180.000 residenti. La seconda cosa da tenere a mente è che Vienna, quantomeno dal punto di vista politico, si riduce alle città intramuros. I 3 km² del primo municipio racchiudono da soli la maggior parte dei ministeri, l'Hofburg, la residenza del presidente, e il Parlamento. Quindi appunto forse ci dimentichiamo a volte che parlare di Austria in realtà veramente significa parlare di Vienna, soprattutto per quanto riguarda per esempio gli elettori, perché gli elettori di Vienna sono sicuramente la maggior parte. Vi leggo quindi le ultime parole dell'articolo della Süddeutsche Zeitung. Sì, in questo periodo stare in Austria è gradevole, ma una volta di più avremo quello che ci meritiamo, lo status quo, il predominio del breve termine, la noia, la grande coalizione. Del resto è dal 1945 che questo paese è governato da una grande coalizione. Però a noi italiani forse viene anche un po' un pizzico di invidia per un paese che ha così tanta stabilità politica, quella che appunto a noi manca da sempre, proprio dal 1945. Ma passiamo a un quotidiano bulgaro, perché c'è un grande tema che è quello dei profughi dalla Siria. E dove finiscono questi profughi? Alcuni arrivano sicuramente anche via mare, con rotte che quindi poi li portano magari anche fino all'Italia, ma ci sono anche altre rotte, e quindi appunto il quotidiano bulgaro scrive dove la Siria tocca l'Europa. Il villaggio di Goliam Dervent, al confine con la Turchia, è il principale punto di accesso in Europa per le migliaia di profughi che scappano dalla guerra in Siria. In mancanza di strutture di accoglienza, gli abitanti cercano di aiutarli come possono, un po' come sappiamo accade a Lampedusa, dove gli abitanti dell'isola sono anni e anni e anni che cercano di dare un primo aiuto alle persone che arrivano via mare. Leggiamo anche in questo caso la prima parte di questo articolo. Gina è seduta davanti a una specie di capanna blu, che in realtà è un emporio e un bar. È seduta con il mento poggiato sulla mano e tiene le gambe accavallate. Guarda verso l'ex municipio, vestigio del passato, del comunismo, e in direzione di una parte la sua casa. Una facciata di mattoni, una porta di legno bianco, un giardino. Gina ce la indica col dito, la possiede da 20 anni, lei non è di qui, ha un appartamento in città, ma preferisce trascorrere qui i suoi inverni riscaldandosi con la stufa a legna. E Gina è appunto una persona che abita a Goliam Dervent, che è a 20 km da Elovo e a 3 dalla frontiera turca. Se volete leggere tutto questo articolo lo trovate anche sul sito presseurope.eu, che è tra l'altro linkato a quello di Internazionale, che fa questo bellissimo servizio di monitoraggio della stampa europea e che appunto noi consultiamo spesso. C'è un altro articolo, perché torniamo a un altro tema economico, che è quello naturalmente del debito, e in questo caso l'articolo è del Wall Street Journal Europe, l'edizione europea. Il titolo è "In dubbio gli obiettivi per il debito greco". I responsabili del meccanismo europeo di stabilità, il programma di bailout dell'eurozona, ha suggerito che i creditori della Grecia non devono cancellare il debito, perché i termini termini dell'ultima serie di prestiti concessi ad Atene sono talmente favorevoli da ammontare a un taglio per i paesi creditori. I commenti del direttore del MES, Klaus Regling, hanno alimentato la tesi secondo cui la Grecia avrà bisogno di un terzo bailout, scrive sempre il Wall Street Journal. Regling ha dichiarato che i calcoli, ovvero l'analisi debito-sostenibilità, non hanno tenuto sufficientemente conto dei termini eccezionalmente favorevoli del bailout per la Grecia. I prestiti dell'Eurozona sono arrivati a un tasso di interesse molto basso e in media non dovranno essere ripagati prima di 30 anni. Sommando tutti questi elementi, scrive ancora il Wall Street Journal Europe, che ricordo è un giornale, appunto l'edizione europea del Wall Street Journal, ed è da sempre stato molto critico nei suoi editoriali di questo meccanismo di bailout dei paesi che abbiamo in Europa. Quindi sommando tutti questi elementi si ottiene un equivalente economico di un taglio del debito. Aiuto non sia mai. Ma a proposito di Grecia, vi cito invece un quotidiano greco, il Katimerini, di questo partito, Alba Dorata, che è un partito di estrema destra. Ho sentito parlare anche a Radio 24 in una trasmissione, è una di quelle situazioni politiche un po' inquietanti, perché è appunto un partito con delle idee di ultradestra. Ecco, comincia a essere un problema, perché un po' per la crisi economica, per l'esasperazione. Sappiamo tutti che in tempi di crisi economica, e la Repubblica di Weimar è l'esempio più tremendo, i partiti di estrema destra possono raccogliere molto favore. Ecco, allora il titolo di Katimerini: il governo affronta Alba Dorata. Il 26 settembre il leader di Alba Dorata, Nikos Mikaloliakos, ha lasciato intendere che i 18 deputati del suo partito potrebbero dimettersi contro le indagini per protestare contro le indagini sul partito stesso, che considerano di natura politica. Beh, certo che sono di natura politica. Nota Katimerini: il governo dovrebbe affrontare un problema complesso, proprio mentre il paese entra in un periodo di negoziati cruciali sul debito e si prepara a assumere la presidenza turnante dell'Unione Europea. E quindi appunto questo partito Alba Dorata è anche un imbarazzo per un governo che tra poco avrà, oltre a tutti i problemi di debito che resteranno all'ordine del giorno, avrà anche questo ruolo di primo piano nel governo dell'Unione Europea. Passiamo a un altro tema, comunque legato al lavoro, alla crisi economica. È un articolo che è stato pubblicato dal Diario de Noticias, un quotidiano portoghese. Il titolo è: le compagnie costrette a riassumere i licenziati per inadeguatezza. Il 26 settembre la Corte Costituzionale portoghese ha bocciato 6 emendamenti al codice del lavoro introdotti nel 2012 per flessibilizzare il mercato del lavoro. Questo significa che le compagnie che hanno licenziato dipendenti perché ritenuti non più adatti al lavoro, clausola inclusa negli emendamenti, dovranno riassumerli. Il Diario de Noticias sottolinea che altre misure per migliorare la competitività delle compagnie portoghesi, come la cancellazione di 4 giorni festivi, non sono state giudicate incostituzionali e dunque rimangono valide. Perciò, insomma, anche il Portogallo, come tantissimi altri paesi, ha le prese con una riforma del mercato del lavoro per conciliare questa esigenza, che sicuramente è reale, di rendere il mercato del lavoro interno competitivo con altri mercati del lavoro, ma allo stesso tempo, specie in tempi di crisi economica, di mantenere le tutele. E torniamo a un tema di cui ci siamo occupati spesso in questa rassegna, che è quello dell'Unione Bancaria Europea. E questa volta l'articolo, ci sono due articoli, uno è da Die Presse, che è un quotidiano austriaco, e un altro da El Periodico de Catalunya, un quotidiano spagnolo. Il tema è sempre quello del Fondo Monetario Internazionale, che spinge per quest'Unione Bancaria e per gli Eurobond. Nel suo ultimo bollettino, pubblicato il 25 settembre, il Fondo Monetario Internazionale consiglia all'Unione Europea di procedere verso l'unione fiscale. Per aumentare la fiducia nel sistema bancario, l'FMI propone di stabilizzare l'Eurozona migliorando la supervisione delle politiche nazionali e accettando una condivisione predeterminata dei rischi, attraverso la creazione di debiti centralizzati, appunto gli Eurobond, e il sostegno alle banche dell'Eurozona. Scrive però Die Presse: queste raccomandazioni rischiano di scontentare Berlino. Sappiamo, Berlino, soprattutto dopo la vittoria della super Kanzlerin Angela Merkel, è sempre più forte, che finora quindi ha rifiutato misure come gli Eurobond e la condivisione del rischio bancario, perché appunto la Germania, quante volte l'abbiamo sentito dire, si sente più forte, non vuole portare sulle spalle i pesi di paesi meno economicamente virtuosi di lei. Segnalo come ultima cosa appunto anche il commento di El Periodico che come di Press si occupa di questo, ha trattato approfonditamente questo bollettino del Fondo Monetario Italiano. Quindi l'FMI ha proposto che l'Europa stabilisca un sussidio di disoccupazione comune all'interno dell'Eurozona per minimizzare l'impatto della crisi economica. Una maggiore condivisione dei rischi tra gli Stati membri, anche attraverso la creazione di un fondo di contingenza comune, un sistema europeo di sussidi per la disoccupazione e un bilancio comune, ridurrebbe, secondo l'FMI, i costi di eventuali piani di salvataggio. Era l'ultima segnalazione, ma naturalmente ce ne sarebbero tantissime altre e appunto potete cercarle in giro per la rete o comunque seguirci perché vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Buon sabato a tutti da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.